usata per invogliare nuove persone a associarsi ad Arvaia e quindi diciamo, non è completamente pertinente a questa situazione, è più che altro per farvi vedere dove siamo e così com'è Arvaia e anche perché un po' si capisce da questo da questa presentazione come è strutturata Arvaia, cos'è, cosa che vi dico brevemente perché credo che immagino che forse non tutti sappiate esattamente cos'è e come funziona, o invece lo sapete già tutti e quindi passiamo. Allora, Arvaia è una CSA. Che significa tradotto in italiano comunità che supporta l'agricoltura. L'acronimo l'hanno inventato gli inglesi, ovviamente, che amano gli acronimi, sarebbe Community Supported Agriculture. Cioè è un'impresa agricola, perché è una cooperativa agricola, Arvaia, in cui i soci sono sia i contadini, diciamo chi produce, nel nostro caso principalmente ortaggi, sia soprattutto la gran parte dei soci sono quelli che nello statuto sono definiti soci fruitori, cioè chi mangia. E la grossa differenza rispetto a un'azienda agricola qualsiasi è che appunto si mettono insieme diciamo, le due figure che di solito sono separate, del produttore e del consumatore, del cliente, e si fa impresa insieme. Impresa insieme significa che si condividono rischi e benefici della produzione agricola. Questo in pratica tu puoi andare avanti un po' come ti viene. L'abbiamo fondata 10 anni fa, nel 2013, dopo una gestazione più o meno come una gravidanza di 9 mesi. L'idea è venuta diciamo, più o meno nel 2012, verso la primavera del 2012. E poi nel febbraio 2013 l'abbiamo iniziata. E questo appunto è la CSA. Diciamo, CSA è proprio il suo principio di fondo è questo, di condividere rischi e benefici dell'attività agricola. In realtà può essere applicato a qualsiasi altra attività imprenditoriale, ma diciamo, noi l'abbiamo imparata così, l'abbiamo copiata, non ce lo siamo inventati, questa cosa della CSA è nata negli anni 70 in Giappone da delle madri che volevano accordarsi con dei contadini per diciamo mettere anche loro voce e mano nella produzione del cibo per i loro figli e poi si è diffuso in tutto il mondo e ogni CSA in realtà ha una sua forma, un suo modo di funzionare che dipende dal contesto in cui è, dalle persone che la fanno, il principio di base è quello lì, di fare impresa comune. E quindi in sostanza quello che succede è che fatto un bilancio preventivo di quello che costa produrre nel caso di Arvaia ortaggi un po' di frutta ma principalmente ortaggi per grosso modo 200 famiglie diciamo nuclei familiari si individua una quota annuale che ciascuno si divide diciamo, il totale dei costi per le persone che ci sono e si individua in questo modo una quota di soldi che se ciascuno mette copre i costi e poi si produce e ci si divide il raccolto settimanalmente e si mangia quello che il campo produce. Ecco, questo, vabbè, questo è solo per far vedere le foto perché tutto questo secondo me adesso qua non ha molta attinenza, se vuoi andare avanti. Vabbè, facciamo agricoltura biologica, teniamo diciamo, quest'area. Arvaia è fisicamente su un'area di proprietà del comune di Bologna, che è a 7 km dal centro, quindi è praticamente è dentro la città, è proprio alla primissima periferia, in uno dei quartieri di Bologna, verso sud-ovest. È un'area agricola di 47 ettari che negli anni 70-80 il comune di Bologna, insieme ad alcuni comuni vicini, Casalecchio, Zola Predosa, ha deciso di mantenere agricolo, quindi di non costruirci stadi, negozi, case, eccetera, e che ha dato per molti anni in gestione in affitto a un conto terzista che ci faceva erba medica per le mucche, e poi nel 2013, quando è nata Arvaglia, e due anni dopo, diciamo, ha invece aperto un bando per assegnare quest'area a qualcuno che facesse un progetto che non era solo agricolo, perché appunto il conto terzista faceva la sua medica e nessuno lo sapeva, cioè nessuno frequentava quella zona, invece a un progetto che fosse anche di coinvolgimento dei cittadini, insomma, che diciamo così, vedesse più implicata la cittadinanza, perché quell'area è stata definita ancora appunto all'inizio, quando hanno deciso di mantenerla agricola, parco città campagna, con l'idea che fosse un'area agricola anche usufruibile dai cittadini. In quella stessa area ci sono altre realtà, c'è un centro sociale anziani, c'è la scuola Steineriana di Bologna, c'è un'associazione di gente che manda gli aerei, che fa volare gli aeroplani, i modellini, gli aeroplani, e basta. No, e poi c'è un'area di, dove i cacciatori tengono i cani. Ad Arvaia è stato affidato, tramite questo bando a cui abbiamo partecipato nel 2015, abbiamo avuto in gestione questo terreno agricolo di 47 ettari in affitto, oltre che in gestione, per 25 anni. Di questo poi, questa questione appunto del tipo di relazione c'è con l'amministrazione del comune di Bologna, magari poi mi soffermo di più, perché è una cosa scusi, non ho capito, 25 anni se stai in affitto, poi avete vinto il bando, no? No. Noi nel 2015, Arvaia l'abbiamo fondata nel 2013, per due anni abbiamo tenuto in affitto un'area di 3 ettari solo, aspettando che il comune di Bologna aprisse questo bando, abbiamo lavorato ai fianchi il comune perché il bando venisse aperto, per poi avere in affidamento tutta l'area agricola, che sono 47 ettari, e l'affidamento era per 25 anni. Quindi noi adesso abbiamo in affitto questo terreno per 25 anni, a partire dal 2015. Ma la relazione con l'amministrazione non è solo il contratto d'affitto, c'è una convenzione? No. Beh, c'è questo, c'è il contratto. Sì. Cioè c'è una cosiddetta concessione che è scritta sotto forma di contratto, che dice che loro ci danno il terreno in affitto a prezzo di mercato, quindi è costosissimo, cioè noi spendiamo 25.000 euro all'anno di affitto per questi 25 anni. In cambio, diciamo, oltre a aver preso in gestione questa area per 25 anni in affitto, pagando, diciamo, il canone, teniamo le aree verdi, perché oltre ad essere un'area agricola ha anche delle aree verde pubblico, diciamo dei pratoni, delle siepi, ne abbiamo piantate anche di nuove noi di siepi, e quindi fa parte dell'accordo anche il fatto che Arvaia tiene l'area, perché è comunque un parco pubblico, un parco cittadino. Se vogliamo aprire una parentesi su questa faccenda, ecco, su questo per esempio noi col senno di poi ci siamo resi conto che diciamo, siamo stati molto sprovveduti all'inizio a non contrattare condizioni migliori. Adesso, a posteriori, da ormai 5-6 anni stiamo cercando di farlo, anche forti del fatto che ormai, diciamo, abbiamo una nostra solidità, soprattutto anche che siamo conosciuti nella città, e così abbiamo questi 100+ soci che fanno parte di questa cooperativa, eccetera. Ma comunque finora non abbiamo ottenuto niente, perché avere a che fare con l'amministrazione comunale è purtroppo, nel migliore dei casi, sconfortante, nel peggiore è, sì, è proprio è vomitevole. No, è così. purtroppo con Bologna è così, nel senso che loro si fanno belli di questa esperienza quando gli serve in campagna elettorale, e poi però diciamo non ci supportano davvero, oppure lo fanno ma magari l'hanno fatto per esempio per 2 anni facendoci partecipare a un bando del settore cultura, perché comunque noi appunto facciamo agricoltura ma facciamo anche attività per i soci e anche per i non soci di partecipazione all'attività agricola, di passeggiate nei campi per spiegare in quel momento che colture ci sono, oppure anche solo di così di, diciamo, convivialità e anche molto di educazione alimentare, di, così, e tutto questo appunto non è valorizzato economicamente. In realtà il comune ci ha detto sì, lo valorizziamo, partecipate a un bando, mettete dentro le attività che già fate e noi vi diamo dei soldi. È durato 2 anni, per ora, dopo hanno vinto le elezioni e dopo non si sono più visti, e così, quindi insomma il rapporto con l'amministrazione è difficile, è faticoso. Su quest'area di 47 ettari, 10 ettari sono dedicati principalmente alla coltivazione degli ortaggi, che poi vengono distribuiti settimanalmente ai soci. E la particolarità della CSA, oltre a quella appunto di condividere rischi e benefici fra chi mangia e chi produce, diciamo, e chi lavora, è quella di poter partecipare all'attività agricola. Quindi chi vuole e può e riesce, perché non tutti i soci hanno voglia o tempo e disponibilità, però possono venire a lavorare insieme a noi. Io sono una delle persone che lavora anche proprio al campo e siamo 5 persone più uno stagionale, però appunto chiunque può venire in modo coordinato, diciamo organizzato con noi, a mettere le mani nella terra, a aiutarci a trapiantare, a raccogliere, a diserbare, a fare quello che si fa in campo. L'altra forma, diciamo, in cui le persone possono partecipare è dando tempo e energie a altre attività che non sono, che, perché ormai è fatta molto dell'attività agricola, ma molto anche di altri pezzi, diciamo, che sono la gestione dei conti dell'amministrazione, la distribuzione delle verdure in città, la parte di comunicazione, diciamo, sia verso l'esterno che anche di favorire la partecipazione dei soci stessi e poi c'è una siamo organizzati, diciamo, fin da subito ci siamo, la cooperativa agricola ha, come qualsiasi cooperativa, cioè proprio la forma giuridica, diciamo, che lo prevede, ha ovviamente un CDA formale, cioè ci sono degli amministratori che vengono eletti, rieletti, diciamo, cambiati ogni 3 anni con presidente, vicepresidente. Nel nostro caso abbiamo deciso che siano 5 persone, ci può essere 7, 9, cioè un numero dispari variabile che si può decidere. Da noi sono 5, ma fin dall'inizio abbiamo deciso, e questa domanda che ha fatto loro è molto interessante su questo, perché noi non ce lo siamo chiesti all'inizio e questo è stato uno degli errori che abbiamo fatto, questo, in che modo e a quali condizioni il potere può essere realmente condiviso. Cioè noi fin da subito, perché Arvaia ovviamente è nata con un altissimo livello di idealità, come un progetto di, sì, di agricoltura, ma anche soprattutto di impresa economica diversa, diciamo, da quelle così più che conosciamo, più convenzionali, cioè un'impresa che avesse una gestione partecipata, collettiva appunto, e quindi non gerarchica, per esempio, e diffusa, diciamo. E quindi abbiamo deciso, per esempio, fin dall'inizio che il CDA fosse spalmato in un gruppo più ampio che noi chiamiamo coordinamento, che si occupava della gestione strategica, diciamo, e anche economica di questa, del governo, diciamo, di questa impresa. aperto ai soci, alla partecipazione di chiunque, non per forza solo appunto al CDA formale. E quindi c'è un gruppo di una variabile, diciamo, fra la decina e la quindicina di persone che fa parte di questo coordinamento, che si riunisce una volta al mese e che fa le veci, diciamo, del consiglio di amministrazione, dentro il quale ovviamente ci sono anche gli amministratori formali, ma ci sono anche i referenti dei gruppi di lavoro, eccetera. Abbiamo provato, diciamo, anche con spunti dalla sociocrazia a darci una forma organizzativa appunto fatta in modo orizzontale. Però, avendo lavorato non molto su tutto questo che diceva prima Luca, per esempio sulle premesse implicite, su appunto la condivisione del potere, in realtà molto lavoro abbiamo fatto, sì, ma moltissimo lavoro ancora c'è da fare su questo piano del quando davvero una struttura orizzontale non nasconde invece una, comunque, diciamo, una gestione del potere gerarchica o lideristica, o no, perché dove c'è una struttura poco chiara, oppure dove la struttura magari è chiara sulla carta, ma poi nella realtà invece, diciamo, non corrisponde davvero a quello che c'è scritto sulla carta, oppure si prendono decisioni che sulla carta sono scritte, sono bellissime, ma poi si fa diversamente, e vengono quei nodi lì al pettine. Allora, su questo, per esempio, oltretutto voi, cioè Arvaia, che pure è complessa, è lontanissima dalla vostra complessità. Sono agghiacciata dalla... non agghiacciata, ammirata. Bravo, dal vostro coraggio. Entrambe le cose. Perché sì, appunto, più si mettono, no, insieme piani diversi, nel nostro caso, diciamo, almeno era un unico soggetto in realtà che iniziava da quel momento, ovviamente fatto da persone diverse, con aspettative diverse, bisogni diversi che non abbiamo esplicitato fin dall'inizio, infatti poi litigi, cose, cioè quello che succede nei gruppi, però con un livello di complessità molto minore, quindi sicuramente caldeggio che facciate, che vi diate il tempo di, ma probabilmente avete già anche iniziato a farlo, insomma, però di noi per esempio non abbiamo fatto, e invece sarebbe stata un'ottima idea, lo stiamo facendo ora con MAG 6, dopo 10 anni, una specie di piano d'impresa, lo stiamo facendo con l'esperienza di 10 anni, che comunque quindi è interessante, però come un piano d'impresa su più anni. Noi proprio siamo partiti così, Ale, bellissimo, andiamo, iniziamo a coltivare, tanto qua la gente capisce solo se mangia e dopo si sistemerà. E invece, insomma, darsi il tempo di esplicitare il perché si sta lì, il che anche che appunto a che bisogni ciascuno, cioè di ciascuno, no, risponde quel progetto, e anche che rapporto ciascuno ha rispetto, per esempio, alla gestione del potere condiviso, è molto, cioè dopo paga, credo. Perché dopo tanto se no, diciamo, è tutto uno scossone in corso d'opera. Non credo che comunque il fatto di fare questo lavoro a priori eviti gli scossoni o i litigi, però si parte come un po' più carenati. Vabbè, niente, poi qua entra molto nel dettaglio in realtà, cioè di come si diventa soci. I soci possono scegliere fra una parte grande o una parte piccola di fornitura settimanale, che costa tot, e il costo appunto deriva dal bilancio preventivo, quindi il totale dei costi. L'altra cosa, e poi ci sono i punti di distribuzione in città, e uno può scegliere in che giorno ritirare la sua verdura, e va lì, prende con la sua sporta e prende quello che c'è scritto sul foglio, che quello è come avere, diciamo, un orto di 200, quindi tu non è che scegli quella settimana se prendere un chilo di finocchio o una verza, prendi quello che il campo ha prodotto. Ovviamente noi che facciamo la pianificazione culturale, che lavoriamo il campo, cerchiamo, e negli anni abbiamo affinato, diciamo, questo, cerchiamo di far sì che il campo produca una quantità e una varietà di ortaggi interessanti, insomma, che, no, che uno arriva e si trova solo una zucca, o che se ci sono i piselli trova due piselli, così. Però è come avere un orto, quindi hai, in certe stagioni hai solo alcune cose, le zucchine a un certo punto finiscono e non arrivano altro che di nuovo poi all'aprile successivo, però quello fa parte anche di tutta la parte più formativa e culturale, insomma, se vuoi, del progetto, che porta le persone a ricapire qual è la stagionalità di quello che si mangia, e anche proprio, cioè, appunto, diciamo, lo spirito in cui si chiede che le persone entrino è proprio quello del non fare i clienti, quindi di entrare proprio dentro anche alla parte di produzione agricola, per cui noi siamo sempre lì pronti a spiegare, a, appunto, se le persone vengono al campo si rendono conto anche loro, eccetera. È una cosa effettivamente, diciamo, partecipata e così molto aperta. Posso fare una domanda al volo? Ma quelli chiamati soci consumatori e fruitori possono dire a loro sulla programmazione delle agricola? Cioè, su, io voglio i finocchi piuttosto che il cavolo, piuttosto che un'altra cosa? Sì, in una certa misura sì, in questi anni l'abbiamo fatto. Nel senso che noi che coltiviamo quotidianamente la terra, una volta all'anno andiamo sempre a incontrare i soci nei punti di distribuzione, quelli che non vengono lì ad Arbaia e anche quelli che invece vengono lì a ritirare la verdura, proprio per avere un po' il rimando di, non so, c'è troppe verze, la rapa rossa, il sedano rapa, ma a me non piace questo, quell'altro. Poi, e quindi ci siamo un po' adattati negli anni. È anche evidente che su 200, che poi non sono 200, perché 200 sono i nuclei, diciamo, di quel nucleo fanno parte magari 4 persone, 2 persone, 5 persone, c'è chi si divide la parte fra studenti, eccetera. Non è che puoi fare come va bene a tutti. Cioè, quello che succede è che poi spesso semplicemente si dia un po', sì, certe cose le abbiamo o ridotte o aumentate in base anche ai rimandi delle persone, un po' gli si spiega, e anche lì appunto è educazione alimentare, diciamo, che cosa si può fare, cioè dove si può modificare qualcosa e dove invece no, oppure, non so, le carote, no, perché le carote richiederebbero degli investimenti, che sì, magari si può decidere di fare, però allora come cooperativa sì, perché far carote per 200 vuol dire farne dei 4.000 metri, eccetera, eccetera, oppure il carciofo, piuttosto che, però per esempio le fragole abbiamo deciso di farle perché i soci hanno detto sì, vi prego, facciamo le fragole a tutti i costi, veniamo ad aiutarvi a raccoglierle, ed è una delle cose che vengono a fare praticamente tutti, perché le fragole sono una dannazione, vanno raccolte un giorno sì, un giorno no, per un mese, e noi in 5 da soli moriamo, dobbiamo, oppure bisogna pagare di più, però insomma tutto questo è molto alla portata di tutti, diciamo, tutti possono saperlo, possono interloquire con noi, quindi in un certo senso sì. Poi ovvio che non è che quando noi ordiniamo le piantine ogni volta, diciamo, sentiamo 200 per dire metto un finocchio, più, no, più meno. Però sì, comunque c'è un dialogo anche su questo, sì. Scusa Cecilia, posso chiedere di dire che sì, questo contesto qua secondo me è importante guardarlo, perché penso che qua sia anche in ricerca di un modello economico, no? Cioè modello, modello è una parola, cioè, diciamo così, immaginari economici anche nuovi, no? Perché noi abbiamo un contesto in cui o c'è un contesto di mercato o non c'è nient'altro, e qua bisogna un po' smontarlo, quelle cose ovvie che prima dicevamo, proviamo a farci le domande a partire dai nostri desideri. c'è un meccanismo, quindi Arvaia, la Cecilia parlava di un meccanismo di compartecipazione, no? C'è un piano culturale, ha dei costi, si divide quei 200 soci, però non è una decisione, c'è l'aspetto dell'asta. Sì. Io la prenderei perché dopo così ci agganciamo. Ci agganciamo anche noi, perché noi poi dopo, rispetto alla sostenibilità condivisa, abbiamo preso spunto da quel meccanismo lì. Sì. Perché da una parte c'è un essere compartecipare al rischio di impresa, no? Si divide e si prende quello che c'è. Si può adottare una formula scontata, no? Già questo è tanto, no? Compartecipare al rischio, però poi si può adottare una forma scontata in cui costa 100, siamo in 200, si paga X a testa. Questo lascia sempre un dubbio della nostra economia di mercato, che dice le cose di cui abbiamo bisogno ci possiamo accedere solo se siamo capaci di pagarle. Questo è il meccanismo in cui viviamo, no? O si vende o si compra. E uno tendenzialmente compra, se soddisfa un proprio bisogno, solo se si può permettere di pagarlo. Allora qui dobbiamo cominciare a mettere in discussione come si accede a quello di cui si ha bisogno. E il meccanismo dell'asta comincia a vivere, secondo me, quello io in questo contesto qua, al di là di come... anche parlando anche di cosa funziona e di non funziona, però questo sia importante, cominciare a mettere in discussione l'accettazione delle nostre disparità, perché come diceva qualcuno che viveva da queste parti, non c'è cosa più giusta che fare parti uguali tra dispari. È proprio un principio proprio da non... cioè che lascia... che secondo me si può fare di meglio, ma cominciando a decostruire un po' di immaginario, secondo me siamo capaci di fare di meglio. Possiamo essere più aderenti ai nostri desideri e provare a immaginarci che ci sono strade anche diverse rispetto a questo che sembra che sia l'unica strada percorribile. Sì, questa delle che noi chiamiamo asta, in realtà è un meccanismo di, come dire, distribuzione della ricchezza interna, cosa che andrebbe fatto a livello mondiale, secondo me. No, nel senso che è quello, l'abbiamo copiato anche questo da questi tedeschi di Friburgo, da cui abbiamo copiato l'idea della CSA, perché ci è piaciuto moltissimo, che è questo, cioè noi sulla base del bilancio preventivo, prima della fine dell'anno, comunichiamo ai soci quella che sarà la quota media consigliata di quell'anno. Dopodiché ciascuno ha tempo di pensare a quelle che sono le sue effettive possibilità economiche, quindi si fa i conti col suo portafoglio e anche col suo cuore, perché non è che per forza il portafoglio, sempre il cuore e il portafoglio, insomma, sono in tutte le persone, ciascuno ha un proprio rapporto, no, col denaro. Comunque, diciamo, ognuno fa una sua pensata e poi ci si trova a questa assemblea che noi chiamiamo dell'asta, durante la quale le persone possono offrire una cifra che è anche o superiore o inferiore a quella quota media consigliata. Cioè, per la matematica, diciamo, se ciascuno dà la quota media consigliata, si coprono i costi e si va. Siccome però non tutti hanno le stesse possibilità economiche, in quell'occasione si ha la possibilità di, per accedere alla stessa identica parte, quindi poi dopo ciascuno riceve la stessa parte di raccolto, però si ha la possibilità di dire: io do di meno perché posso di meno, io do di più perché posso di più. L'importante è coprire i costi, perché appunto l'impresa, diciamo, la cosa interessante è che la verdura non è più pagata al chilo, cioè tu non è che stai pagando dei finocchi al chilo, stai pagando perché la produzione agricola avvenga, dopodiché il raccolto è diviso. E questo funziona incredibilmente, si fa, la chiamiamo asta perché ciascuno proprio scrive su un bigliettino ed è anonimo, non ci interessa niente sapere chi mette cosa, ovviamente chi fa le fatture a Paola lo sa chi mette cosa, ma non è importante quello, l'importante è che il costo complessivo sia coperto. E quindi ciascuno offre una cifra e si fa magari un giro, quest'anno per esempio abbiamo fatto un unico giro, incredibilmente siamo anche andati sopra alla copertura dei costi, e si vede se, fatti i conti, si coprono i costi. A quel punto ciascuno sa cosa ha detto che metterà, lo scrive anche su un foglio, così non se lo dimentica, e dopo si va. E in questo modo, diciamo, in quel piccolissimo contenitore che siamo di 200 famiglie, però funziona un meccanismo di solidarietà interna, per cui persone che hanno maggiori possibilità economiche permettono di partecipare ad altri che magari non se lo potrebbero permettere, e invece possono anche loro mangiare questo cibo che è no, biologico è poco, nel senso che il biologico dice poco, è soprattutto è prodotto in un modo che diciamo è sano per le persone, ma anche per l'ambiente in cui viene coltivato e così è, diciamo, per le relazioni. Poi vabbè, ovviamente siccome è più complesso di così, appunto perché noi abbiamo questi 47 ettari, quindi coltiviamo una parte ad ortaggi, una parte a seminativi, a cereali, sia perché in agricoltura biologica si fa la rotazione delle colture, quindi dove van via gli ortaggi si seminano i cereali, poi si semina il sovescio che è un misto per diciamo, ingrassare il terreno, un misto di graminacee leguminose, e poi di nuovo gli ortaggi, e poi perché tutti questi ettari in parte vengono coltivati a erba medica che prende un fototerzista, eccetera, diciamo, perché noi cinque non riuscivamo a occuparci di tutta questa terra con le nostre sole forze, quindi a un certo punto diciamo, abbiamo provato all'inizio e poi a un certo punto abbiamo deciso che una parte la facevamo lavorare, eccetera. E poi appunto c'è questa possibilità di godere di questa campagna per chiunque, in realtà anche non bisogna essere soci per forza, né per venire a lavorare al campo, né per venire lì e stare a fare un picnic, eccetera. E così, quindi insomma è diciamo un progetto che mette insieme molta parte agricola, ma moltissima parte anche sociale, di relazioni e formativa, se vuoi, diciamo culturale. Ecco, io finito questo, lascerei le vostre domande perché. Se riprendi l'ultimo discorso, questo maniera strutturata, nel senso non bisogna essere soci per partecipare all'attività agricola, quindi vuol dire che volontariamente io accedo da Vaia, uso attrezzi, cioè chiedo una questione di presenza al campo, assicurazione, uso attrezzi, cosa succede? Allora, succede questo, che no, tu non vieni da solo al campo a zappare dove ti pare, okay. No, passi attraverso il gruppo dei contadini che coordina i lavori, quindi c'è io in particolare, diciamo, curo questa partecipazione delle persone ai lavori del campo e quindi settimanalmente comunico a chi ha espresso il desiderio di farlo, comunico che lavori ci sono da fare quella settimana, in quali orari, siamo lì e le persone mi dicono guarda io vengo quel giorno e così. A volte addirittura si dice no guarda non ci siamo, quindi viene un altro giorno, in modo che non si... però la parte dell'assicurazione è coperta, questo l'abbiamo invece copiato, dai, noi copiamo, prendiamo a piene mani dagli altri, dai WUF, quelli del WUFing, cioè... Quelli strani in pratica noi, sì, per poter far venire le persone al campo senza che sia lavoro nero, senza che se qualcuno si sbuccia un dito succede qualcosa, siamo diventati fattoria didattica, che poi non siamo fattoria, cioè lo siamo nel senso che uno ha fatto il corso, quelle stupide cose che frequenti le ore e così, però siamo fattoria didattica e quindi è come se avessimo, cioè abbiamo aperto un corso di formazione annuale che c'è 365 giorni all'anno gratuito, per cui le persone che vengono al campo si iscrivono in un registro e così siamo a posto dal punto di vista formale e possono venire anche i non soci, cioè chiunque può venire, certo. Non è che devi per forza essere socio. Per iscriversi in palestra. Sì, all'inizio lo chiamavamo l'agri-fitness. In questa modalità, per esempio, sono arrivate, e lì per esempio è una delle funzioni anche sociali che stupidamente il comune non valorizza, noi non facciamo agricoltura sociale nel senso classico, cioè con le persone certificate, svantaggiate, eccetera, anche perché non siamo una cooperativa sociale, siamo una cooperativa agricola, e poi perché non ci sentivamo di aprire quella porta, ma per tutta una serie di persone che magari sono in un momento di passaggio nella vita, che mollano il lavoro e perché vogliono fare una cosa diversa ma non sanno ancora bene dove buttarsi, oppure chi va in pensione, oppure i ragazzini, per esempio gli adolescenti che dal 6 di giugno sono a casa, i genitori, eccetera, ma in modo molto informale, senza averlo codificato, cioè arriva chi, però arriva chiunque, e ci sono state persone che sono state magari dei mesi così, e godono di quella cosa che voi, che tu lavori i campi, che chi lo fa di mestiere o chi l'ha provato sa che può essere molto salutare, no? Di lavorare insieme fisicamente con persone magari di età diversissime, di esperienze diversissime, e così. Quindi, e questa è una cosa che, così, che in un'azienda agricola normalmente non succede, o sei agricoltura sociale, allora gli endi, oppure o gli psichiatrici, quelli così, che però allora devi avere anche degli educatori, oppure c'è tutta una, tutti noi, diciamo, siamo, ma noi che ci lavoriamo lì per primi siamo quelli che erano, cioè che hanno beneficiato, diciamo, di questo lavoro, quindi sappiamo che può essere molto, è come un po' la casa dei nonni in campagna, non so se qualcuno l'ha avuta, che, cioè, dove poi appunto vai, fai dei lavori insieme, poi si mangia insieme, si, così, ricreare, diciamo, questa possibilità. Sì, posso farti anche una domanda? Sì. Parlavi di 200 soci, no? Ma quindi restano 200, perché se la divisione, cioè, cerco di spiegarmi, se fate, diciamo, la previsione del bilancio, quello che servirà nel corso dell'anno, questa, diciamo, quota media ipotizzata viene individuata dividendo il totale per 200 soci, mi viene, cioè, è possibile che qualcuno si aggiunga, e cioè, come funziona, sì, questa cosa? Allora, noi stiamo sempre, allora, abbiamo iniziato con numeri più piccoli, abbiamo iniziato con 25 il primo anno, poi sono diventati 50, poi via via sono cresciuti fino a qua, adesso abbiamo visto che più o meno il numero è quello, perché magari qualcuno arriva ma poi qualcuno va via, e così. Quindi grosso modo quella è la dimensione, oltretutto quella è la dimensione massima, secondo me, più o meno, magari 250, in cui riesci a tenere delle relazioni, se no diventi la COP, alleanze, cioè è difficile poi parlare di, sì, di comunità, non è comunque una comunità come probabilmente siete voi, cioè non è una comunità di persone che vive insieme, che lavora insieme, cioè siamo comunque una comunità nel senso di un numero di persone che sta attorno a un progetto, però poi le relazioni sono diversissime a seconda, anche la vicinanza a questa cosa, è i motivi per cui le persone sono lì sono i più vari, e c'è chi partecipa molto, chi partecipa molto meno, però diciamo c'è la libertà di starci in misure personali. Noi sappiamo che possiamo arrivare ancora fino ai 250, 250 parti, diciamo, di ortaggi, ci teniamo un margine tutti gli anni di roba piantata che va al mercato, cioè viene venduta a un mercato lì di fianco, da noi stessi, e che serve a fare da cuscinetto, se arrivano nuove persone rubiamo parti al mercato invece che prenderle da quelle di chi ha già sottoscritto questa fornitura. Il campo in realtà è sconfinato, quindi cioè, si potrebbe coltivare altro che per 250, però ovviamente a quel punto poi ci vorrebbero più persone a lavorare, insomma, sì, credo che la misura sia quella. Adesso è un momento che stiamo anche cercando un po' nuovi soci, perché la sostenibilità economica, appunto, cioè il grosso comunque di quello che entra in Arvaia viene da queste quote, e quindi sarebbe un po' per delle economie di scala, diciamo, sarebbe piuttosto che tagliare persone, abbiamo detto quest'anno se riusciamo a far entrare altri 40 stiamo un po' più larghi, stiamo un po' meglio, e quindi abbiamo chiesto ai... Ecco, poi fate altre domande se ne avete. Chiedo un attimo per capire quanto se volete un quarto d'ora di un piccolo contributo anche di Max, certo, 6, certo. Noi ce l'abbiamo, allora, rispetto a queste tematiche. Concludere qui con una o due altre domande massimo, e comunque, minuti, e comunque poi, sì. Noi possiamo rispondere anche via mail o sentirci o venite a trovare, cioè rimaniamo disponibilissimi. Va bene, grazie. o sì, o tu vi lascio anche una mail. No, però la mia domanda magari che mi sembra di più è a livello di retribuzione, come le calcolate le retribuzioni sulla base del bilancio preventivo e poi anche se è una stagione fa male, questo meccanismo è anche per evitare il meccanismo di assicurazioni, cioè che comunque la avete soci che anticipano i soldi che appunto stanno facendo il bilancio preventivo e quindi se avete una cadenata che devasta tutta le colture, come meccanismo. Allora, a livello di contratti siamo 7 persone che lavorano in Arvaia, 5 al parte agricola, una in amministrazione, una nella parte più di distribuzione, spostamento diciamo, delle verdure in città e il mercato. Abbiamo tutti un contratto da operai agricoli stagionali, quindi che tutti gli anni, quindi con 180 giornate al massimo all'anno versate, a livello più alto, quindi lordo diciamo è parecchio, però comunque lavoriamo, diciamo che riusciamo a pagarci sugli 8 euro all'ora, perché noi ovviamente lavoriamo molti più giorni di quelle 15 giornate al mese che ci versiamo, però per ora, ed è invece anche uno dei motivi per cui abbiamo chiesto questa consulenza con Maghe, perché vorremmo riuscire a renderlo un po' più stabile ancora come mestiere per chi ci lavora, soprattutto perché dal punto di vista contributivo avere quel contratto vuol dire che versi per la pensione 2 anni ogni 3 e poi i giovani per esempio non so che se vuoi un mutuo eccetera, cioè sei l'ultimo gradino più o meno della così. Quindi ecco, ci piacerebbe riuscire a invece fare dei contratti a tempo indeterminato che però costerebbero 10.000 euro in più a testa, noi costiamo 20.000 euro all'anno ciascuno alla cooperativa, ne costeremo 30.000 ciascuno, quindi è un salto non piccolo, e però non vorremmo far pagare chissà che soldi ai soci, insomma vorremmo riuscire a trovare, quindi anche lì allargare magari un po' il numero delle persone così. Dal punto di vista dei rischi, l'idea è proprio quella che condividi i rischi, quindi se c'è l'anno che arriva la grandine, magari ci sono le zucche rovinate o sì, niente, e la gente ha già pagato. Non nel senso che ha già pagato, che tutti a febbraio hanno già pagato tutta la quota, perché poi c'è chi la divide in 5 volte, chi alcuni magari ma che si è impegnata. E l'idea appunto è che tu non è che sei un cliente che quando va male te ne vai, dovresti sentirti responsabile, diciamo così. Poi anche questo succede. E comunque coltiviamo talmente tante varietà di verdure, perché c'hanno 50 diversi tipi di verdure nell'anno, che non può andare tutto male, cioè il rischio in realtà è basso. Noi l'assicurazione non le consideriamo neanche, anche perché facciamo, cioè è un'agricoltura contadina, è un'agricoltura di piccola scala, quindi non è che hai 3 ettari di zucchine, capito, dove viene l'afide, no, cioè al massimo perdi qualcosa, sì, non, c'è il rischio e lo condividiamo, ma non è un rischio così grosso. Però sì, la perdita è spalmata su tutti. Quest'anno il miglio l'abbiamo raccolto pochissimo, le patate pochissime, niente, si mangia meno patate. Sì, lo spieghi, lo conto. Visto che la domanda non c'è stata, l'informazione forse può diventare utile. Arvai è sicuramente un'esperienza fondamentale, è stata forse la prima, CSM Italia è ancora una delle più grosse, però tenete presente che a Siena avete l'Orto Mangione, che è una realtà di CSA in evoluzione, che è interessante anche perché si diversifica. L'Orto Mangione si diversifica anche su altro tipo di produzioni, visto che Mondeggi non punterà sull'orticoltura, quindi magari potrete prendere in esame anche altre possibilità. Sì, però, sono già anche contattato loro. Sì. E comunque adesso vi lascio la mail, se mai, insomma siamo, se volete venire, così altre domande, diciamo. E sul campo sono anche più. Sì, o anche poi la forma giuridica, queste cose qua. Ma no, le piante le compriamo da un vivaio, assolutamente, perché è un altro mestiere. Sì. Facciamo noi le zucche. I semi ve li fate voi o no, i semi, allora i cereali spesso li sì, risemiamo il nostro, quasi sempre, tranne che se quando si sporca molto e si mischiano per la trebbia, perché trebbiamo noi, quindi a volte si sporca molto il seme, allora lo ricompriamo. I semi degli ortaggi li compriamo, però seminiamo solo i legumi in pratica e il resto compriamo da piantino. Ma avete anche qualche collaborazione con Arco Iris su alcuni semi? No? L'abbiamo fatto i primi anni, ma dopo adesso lasciamo spazio a... Sì, questi... No, dopo...